Ceci, c'è qualcuno? Avanti, sezione 10, gabba, ascoltate Antonio. Binario 10, binario 10, copiate Antonio, gappa. Chi è? Chi è? E avanti. Saluti Luca da questa parte. Gappa, salutoni. Antonio barra mobile. Ciao Antonio, ben sentito. Ben sentito anche a te. Mamma mia, quanto sta piovendo. Io oggi ho finito presto e sono già a casa. Ma va bene. Dove lavori, in cantiere? Negativo, trasporti. Ah, tonista, no? Ho sentito qualcuno sotto, ma molto basso, non sono riuscito a capire. Io c'ho lo squarci girato, quindi non ho sento. Avanti, chi è? Sassari, zona Monserrato. No, negativo, mi occupo di logistica. I miei colleghi sono camionisti, non io. No, no, i nostri non hanno baracchino in camion. No, parlavo con un amico che è in barra mobile e sta rientrando. E ogni tanto va via. Antonio, ci sei ancora? Lo senti l'amico? Negativo, non lo compro, di dov'è? Alghero, modula da Alghero, Antonio. No, no, non lo sento di Alghero. Dove un bel di QRM, no? Adesso vediamo quando me lo pisciuto lo sento. Sì, QRM è molto alto, è vero. Voglio prendere un microfono che comanda il volante adesso. Io sono rientrato prima perché c'erano gli tecnici di Open Fiber, perché non mi stava funzionando la rete a casa, la fibra ottica. Ah, quindi ha rotto la discarica. Ma adesso sta andando, evidentemente c'era qualche problema sulla linea proprio, non era problema di modem, perché mi hanno detto guardi alle 4:30 si faccia trovare a casa che noi interveniamo in centrale, se vediamo che il problema era della linea lo risolviamo in centrale, se in centrale invece va tutto bene vuol dire che il suo modem che non funziona, se reputiamo sia il modem la dobbiamo trovare a casa per sostituirlo, e invece sembra che stia andando, per cui se ne sono andati direttamente. Cosa sei tu, l'operatore? Wind 3. Buonasera. Buonasera a lei. Ciao Antonio, ciao Luca, Carlo da questa che vi saluta. Ma salutone Carlo. Da che parte sei Antonio in barra mobile? Qua sempre segnale buono, Zona quadrato. Eia, 99. Radio 5. Ah, esita che è un attacco a Gigi. Luca, anche io c'ho Wind con la fibra. Ha rotto la scatole, viaggiare con la pioggia. Sta piovendo, Anto, ma sino a poco fa qualche gocciolina, adesso un po' ha aumentato, capito? Non è tantissima, capito? Però già va bene, perché da queste parti nostre non è che ha piovuto tanto, Quel ciclone è passato sulla costa orientale, diciamo da Olbia verso giù, verso Muravera, sino ad arrivare a Cagliari, diciamo, lì i bacini li ha riempiti bene bene, invece qua di Righinzu, Cuga, insomma da queste parti nostre ancora sono quasi, non dico a secco, dai, però ce ne vuole ancora di acqua. Quindi se piove è meglio così. Hai visto il servizio che hanno mandato in onda oggi? Sì. Ciao Carlo. Sì, sì, Antonio che l'ho visto. Ciao Luca. Carlo, oggi stai uscendo potente, hai fatto qualcosa? No, negativo, sempre quell'antenna là, non ho fatto niente. Sto uscendo con la massima adesso e forse per quello. Arrivi tra 8 e 9. Ebbene, magari con l'antenna che hai messo tu adesso mi senti anche meglio, capito? Ti stavo dicendo che anche io ho Wind con la fibra, Open Fiber, idem anche qua, però si viaggia bene, anche dove abitavo prima la stessa cosa, avevo lì Sky, la fibra di Sky, e andava perfettamente anche là, la fibra è un'ottima cosa, dai, rispetto al rame che c'era prima. Cappa, io ce l'ho da diversi anni, da quando avevano fatto tutto il cablaggio in fibra della città, ce l'ho da allora ed è la prima volta che mi si blocca. Avanti ieri sera non andava, ho pensato fosse una cosa momentanea, dovuta anche al meteo, eccetera. Immaginato magari hanno un problema in centrale. Ieri sono rientrato e ancora non c'era linea, stamattina niente, e però mi hanno chiamato, perché ho fatto la segnalazione ieri sera, mi hanno chiamato stamattina alle 7:30, interveniamo oggi alle 4:30 se si fa trovare, è possibile che abbiamo la necessità di controllare dentro casa sua, a meno che non risolviamo tutto in centrale, e così è stato. È meglio così, evidentemente era un problema esterno, capito, non c'entrava niente il tuo modem o la tua linea, e con le piogge magari qualche infiltrazione d'acqua ha bloccato tutto, perché anche qua ho visto qua giù stavano intervenendo su uno snodo e stavano rifacendo tutti i collegamenti con la fibra, non so se sono cose che stanno aggiungendo oppure era qualche intervento dovuto proprio a interruzioni o cose del genere, però ci sta, dai, col brutto tempo ogni tanto qualche difficoltà ci può stare, l'importante è che la risolvano velocemente. Ma io sono fermo qua a Piazza del Signo, com'è il segnale? Ottimo. Va bene, Antonio. Anche i giocatori che si stanno allenando, sotto la pioggia. Purtroppo gli allenamenti, pioggia o non pioggia, chi li deve fare li fa comunque, capito? E gli sport, diciamo, che si praticano all'esterno è così, quando hai le partite, se piove, a meno che non faccia un diluvio universale, che allora la rinviano, se no diversamente si gioca comunque bagnati, ma si gioca. Purtroppo è un po' dei ricordi che fino a questo di tutto, come nelle tribune, le cose a me non copre l'idea, da qua si vede bene, bene, bene, giocando si vede. Lo so. Bene meda. E Luca, quindi oggi sei rientrato prima a casa? Sì, ma come sono arrivato adesso che c'è la linea, ho acceso il PC e sto continuando a lavorare da qua per chiudere le ultime cose. Ah, ecco, sì, anche io sono al computer così, ma io non è che lavoro al computer, io per svago, capito, stavo insomma guardandomi un po' di notizie, di tutto, dai, col computer ci va di tutto, controlli le email, io ci faccio anche qualcosa di lavoro, corsi online, eccetera, aggiornamenti che abbiamo, ma non sempre, non tutti i giorni, capito, fortunatamente. Io invece da mattina a sera attaccato a questa macchina infernale, e niente, adesso ho dato gli ultimi orari di carico, ci pensiamo a domani. Allora stai concludendo il lavoro di oggi, dai, bene meda. No, io oggi di riposo, rientro domani sera e c'ho il turno sino a mezzanotte, quindi rientro a casa tardino domani, capito? C'ho il turno dalle 16 a mezzanotte e quindi inizio il ciclo delle sere, 4 sere, e poi libero il riposo e poi si riprende di mattina. Io invece gli ultimi 21 anni dalle 7 in ufficio, già in ufficio a Porto Torres, esco di solito 5, 5 e mezzo, 6, non ho un orario ben definito, quando è finita la programmazione che tutti gli autisti sono avvisati, allora me ne posso andare. Dipende dal lavoro, esatto, il tuo lavoro è così. Il nostro ha orari precisi, ma anche noi siamo legati a tante variabili, maltempo, rotture, quindi non partono gli aerei per un guasto, ritardi, e quindi anche noi molte volte, anziché uscire per dire a mezzanotte, ci sono i tecnici e vai via alle 2, 2:30, a volte anche più tardi, a volte facciamo l'aggancio turno, si fa la notte, poi vede chi entra la mattina alle 5, capito? E purtroppo è così, già ce le pagano, la verità è, il notturno è anche pagato bene, però è una vera rottura quando capita. E da me tante volte i rivenditori di gasolio vedono che l'indomani il prezzo scende, allora subito mi chiedono viaggi, perché anche pochi centesimi su grandi quantità per loro sono tanti soldi. E magari tu hai finito già tutto e ti chiamano di sabato, lunedì 3 macchine, 4 macchine, e quello è il lavoro, così bisogna fare. Lo so, e poi di questi tempi con il prezzo del carburante che sale, poi riscende, perché le notizie sono sempre diverse in base alle situazioni che ci sono in giro nel mondo, capito? L'economia ultimamente la stanno facendo i mercanti del petrolio, capito? Chi ce l'ha non lo può produrre, chi ce l'ha lo produce ma ne mette in giro poco per creare instabilità. E chi paga siamo sempre noi, pazienza, speriamo in tempi migliori. Non la vedo grigia, no? Cioè non la vedo buona, no, con questi esaltati che ci sono in giro, con manie di conquista e guerre in ogni angolo del mondo. È davvero, davvero. Antonio, ma stai guardando sempre l'allenamento? Adesso tra un po' mi sto muovendo, insomma. Sì, a Benemera, già siamo qua in radio, io mi sto controllando la fossa, facendo pure pulizia, mamma mia quanta robaccia che arriva. Lo so, purtroppo è così. Io invece mi sto guardando tante belle radio che ci sono in vendita su Subito, su tanti siti, c'è molte cose interessanti. Se si tratta di fare acquisti online, c'è l'imbarazzo della scelta. Nel settore radio, guarda, trovi di tutto e di più. Radio buone, meno buone, per gli appassionati ce n'è di tutti i gusti. Soldi ci vogliono. Soldi, spazio e anche tempo per sfruttare tutto, capito? Quello che manca a volte è il tempo. Comunque ho notato, Antù, che le giornate piano piano stanno crescendo, perché ancora non è buio e sono le 6:20 praticamente. A fare buio completo va a finire che sono le 6. Considera che oggi è nuvoloso, sta pure piovendo, capito? Quindi adesso è anche più buio. Però i giorni scorsi ho controllato qua dalla finestra di camera da letto, fa buio intorno alle 6, mentre un mese fa, diciamo 5:15, 5:20 era già buio. Meglio così, perché la primavera a me mi mette il buon umore, dai, la bella stagione. L'inverno è più triste, capito? Fa buio presto, giornate corte, freddo, si esce di meno. Invece d'estate, diciamo, è molto meglio, dai, primavera soprattutto. Cosa mi auguro io? Che ne avvini a cominci il lavoro, perché non ne posso più. Speriamo bene per te, dai, speriamo bene che trovi qualcosa di stabile. Prossimo anno mi con il motocarro e mi faccio i viaggi. Mi devo rompere le palle di stare così, C'è la possibilità, sì, così almeno qualcosa, diciamo, riesci a fare, ti metti in proprio, non so se devi avere poi la partita IVA, capito? Molto probabilmente sì, capito, per fare trasporti, però diciamo già, se hai buona volontà già, diciamo che dovrebbe andare bene. Quando dici che non me ne frega niente di dare a mangiare gli cipocchi, se lo vogliono è così, me lo faccio a conto mio. Oppure puoi fare anche così, no, l'importante insomma è darsi da fare, dai, e fare qualcosa di concreto. Me lo faccio a conto mio e via. Sei in movimento, Antù? Antù, detto che me lo faccio a conto mio. Senti ora? Sì, adesso ti ho sentito a questo passaggio. Non ho voglia di dare a mangiare a questi porci. Cioè, che c'è fa 30 euro, c'è, mi sono guadagnando i rubani e boh. Benemera, benemera. non mi esce il viaggio, non conviene più pagare il tasse, no? Troppo. Cioè, se paghi le tasse a loro, perché poi devi punire a parte? Cioè, se tu paghi le tasse a questi maiali, non lavori più, capito? Lo so, perché se fai tutto in regola, devi pagare le tasse, ti devi pagare i contributi, l'INPS, fatturare, insomma, e hai bisogno, se tu non lo sai fare, di qualcuno che ti tiene la contabilità, e purtroppo lavorando nelle prendi scegli, si ammazzendi. Burocrazia, certe attività lasciarle libere, capito? E poi uno volontariamente, se vuole, si riversa i contributi, e altrimenti niente, non se ne fa niente. Scappa. No, mi voto, cioè, secondo me si rubiate, se lo vuoi così, no, me la fottinuta. Cosa è? 100, cosa devo guadagnare? 50 euro, mi rimango in busciacca e via. Claudio! E la matta di Nevaria, mi chiama Zendi, KK. A chi capo di soccorre vede? 9:30. 9:30, certo c'è la radio oggi, sì. Che sta uscendo? Ciao Claudio! Ciao Carlo, buonasera, ben ascoltato. Ciao picchi modulazione, un bel strani. Sta piovendo di brutto qua, capito, brutto tempo. Niente, mi facendo quattro chiacchiere con Antonio e c'è anche Luca in ascolto. Ciao Claudio, ben sentito. Ci sono. È la volta delle varie, prova più 30, c'è Luca chi per il Vella. Floppi, Luca Floppi da Via d'Italia. Ciao, ciao Cla, ben sentito. Ehi, ciao Luca Floppi, così ti chiami adesso. Luca Floppi, va bene. Cappa di Rosma e Luca Via d'Italia, non mi via zia, pari a un monumento. No, Floppi, gli amici mi hanno sempre chiamato così. Va bene. L'importante è che c'è un nome attivo, se no anche Luca Floppi va bene. Quando sono doppi nomi, allora sì, bisogna ricorrere al nominativo. Io mi sa che sono solo Soletto e quindi già col mio nome già mi riconoscete. Di Carlo ce n'è uno. Ascolta Luca Floppi, ma mi ascolti come ieri? Perché qua noto picchi di modulazione un po' strani. No, arrivi sempre a palla e ti sento bene. Quando fischi è sullo smitter, sale appena. Non so se si chiamano picchi positivi. Esatto, il picchio deve essere positivo perché altrimenti non va bene. Questa radio deve picchiare positivo, come la canzone, capito? Io picchio positivo perché sono vivo, Anche da parte mia, quando moduli da 9:10, diciamo, a picchi positivi, già ti senti forte e chiaro, e buon segnale Claudio, come sempre. Boh, la radio però mi convince in questo periodo, sto facendo un sacco di controlli, non lo saggio, se è sempre la stessa radio o vogliamo ragionare, perché questa MC60 ogni tanto fa i capricci, capito, mi hai chiaro? Magari se è freddo, andare un pochettino e poi già si riprende, però la radio è sempre quella, è forte e chiaro il segnale, la voce è tua, segnalone lo stesso, e quindi cosa ti devo dire? Niente di fatto, tutto uguale, tutto buono. Va bene, oggi mi viene freddo, oggi vende al centro ecologico. Sì, un giretto mi stavo facendo. Anche la piazza Lessini dovresti arrivare bene. Ma ti ho sentito anche in città, già va bene quell'impianto, lascia stare così, già va bene. Dato al segnale. Ehi, a 40 si arrivi, ti facciamo lo smitter. Non fare danni! Ah, voi hai già regolato la strada di lo smitter, di nuovo a regolare lo smitter. Avanti Luca, e allora questa antenna sta funzionando bene? abbiamo fatto il rodaggio con questa perturbazione e oramai non la devo tenere più al minimo dei giri, adesso ho scaldato il diesel. Va bene, sei quasi 9+20, cazzo, c'è un segnalone. Vabbè, piano, adesso vediamo di capire cosa dobbiamo mangiare a cena. Passo solo io sempre. Tannati! Nuova 60, sì, la mazza di Nevaria. E lì dietro, Claudio. Cos'è? E ce l'hai lì dietro, il vicino, ti credo 960. Sotto casa ce ne aiuta a trasmettere, capito? Al centro ecologico, 960. Ciao Gianni, come va lì da te la radio? Che sono preoccupato per questo microfono. Un burro, buonasera a tutti. Come ieri già, tutto a posto? Assolutamente, confermo e puntello. Allora puntelliamo, lo sento un po' picchiando poco, il picchio qua lo vedo più sulla T250 che sulla radio, se non si farei del rumore rugoso, lo smite. Avanti Carlo. Ciao Gianni, anche a te, sempre segnalone qua, radio ottima da queste parti. Ciao Carlo, buonasera, credo che sia Luca e quel malandrino di Antonio, adesso il barramobile sta seminando il panico. Pagappa, il barramobile sono, come mi senti da quelle parti? Antonio, la radio è un po' bassa, comunque 9 qua, dai. Va bene. Che automobile M300, Antonio, ce l'ha quello che ti ho detto di Alghero, ne ha 2 M300. Sto pensando, e poi vengo qua a modulare. Sì, vabbè, poco attenuatore io, attenuto, mi siete tutto a posto. Vai da bravo Antonio. Tanto avvicina, sai a chi se pigio il pulsante da 30 watt diventano 800, quindi sta attento a fare la fine di Antonio R20. Oggi tanto viene a prendermi che sono a piedi e sto arrivando, intanto c'è una corsa in via La Malfa, tanto non mi sono capizzato, mica sono sotto, schiaccio la portante e c'avevo l'amplificatore attaccato, sto scendendo, tanto vado, viene la macchina, Antonio mi dice, Anto, dove sei? Io che gioco, sotto la giridera. Tanto mi ero fiato e bruciato in questa macchina, già mangia il luma. Me l'avevi raccontato qua. Occhio, quindi Antonio. Antonio, stai attento. Ci sentiamo ogni tanto, no, su WhatsApp, me lo ricordo sempre, a mezzo di me di parlare alla radio della macchina. Sì, più mette che non ti sei andato da sotto. Ma mi è sfuggito proprio. Cazzo, si è acciato il VTT. Mi ricordo, se viene 9:22, figurati della Kenworthy. Mamma mia, come sto? Mi ha giocato un colpo da 931 watt. Ho disintegrato la radio, ha sentito lo Smith pure circolata la giura. Come sei Carlo, è a casa? Yes, positivo, a casa. Infatti vedo il tuo segnale, 9 pieno quasi. Gianni 9:05, buono il tuo segnale. Mentre Luca è quasi sul 20, 9:15, 9:18, vai Luca. Magari come ha girato il vento arrivo meglio. Oggi cos'è? Maestralino? Non è completo più nulla in questi venti, cazzo, ogni giorno ce n'è uno. Io me ne accorgo dalla veranda, quando esco in veranda, ma la mattina di varia non vescio, non esco fuori. Quando esco in veranda me ne accorgo che vento è. E poi erano 20, ma adesso sono diventati già 30. Allora, è così. Ma già è calato il vento, dai, perché sto vedendo la pioggia che scende bella dritta, dai, non è vento forte adesso. E Luca, l'antenna sul tetto è tutta un'altra storia, capito, da come di prima. Da quella posizione tu arrivi bene dappertutto. Volevo chiamare un'amica mia in Giappone, ma mi sa che non ci arrivo con 4 watt. Vedo io, quanto te ne servo? Io ne ho 800, facciamo metà per uno, 400 e 400. Ah, vedere se ci prepara il sushi. Ho scelto di gara due pacchetti di legna. Antonio, Bombolino, cazzo si farà della Dremma? No, chi so, con via Milano va. Ah, c'è il carattere geniale, via Milano c'è, Adesso mi c'è favorevole a Luca. Gappa, gappa. Adesso ti arriva bene, no, Luca? Ti arriva più forte adesso di prima. Qua. Vabbè, adesso sono in via Milano, E lì già sei anche in linea d'aria, sei anche vicino a questa zona. Non si vede, cioè, cazzo e cazzo di pioggia, mamma mia. Ti stai avvicinando a casa. Adesso sei a 9:20. Adesso viene sotto casa tua, prima giù te noghi. Adesso fa il giro, tutto il giro largo. Birra non manca, mai. Capo. La birra non manca, mai. No, già nel profeta c'ha binari, non ne ha birra. Io non ne bevo, no. Non beve Antonio, beve Coca-Cola, una persona seria. E già un attimo che non bevo più. Fai bene, fai bene. La beviamo noi al posto tuo. Cosa hai detto? Fai bene agli altri. E allora? Non posso bere più, no. Però una volta già mi faceva la mina. Una volta, quando eravamo giovani, che si beveva, adesso si beve più. Adesso si beve con più considerazione, bevute di qualità e non di quantità. Prima era farsi male, adesso è a gustarsi le cose, almeno da parte mia. E bisogna anche moderarsi, capito? Luca, io lo stesso, ieri sono andato a fare la spesa e me ne ho comprato un pochettino di birrette, ho preso Moretti, quella birra rossa che è più alcolica, però è molto gustosa, capito? Ha un buon sapore, però ovviamente la bevo se mi prendo la pizza, se viene un amico con qualche patatina, ma solo in queste occasioni io a bere, se no quando sono da solo difficilmente ne tocco né vino né birra, solo in compagnia e quando stai mangiando. Ma io ultimamente, visto che mi hanno messo a dieta forzata, però senza la birra non ci riesco a stare, sto bevendo la birra analcolica e ti devo dire che alla fine non è male, non ha l'alcol che non va d'accordo con la dieta ed è buona. Ho preso la Warsteiner l'altro giorno ed è piacevole. E pagare birra e ovviamente senza l'alcol, però il gusto è buono comunque, perché anche a me è capitato di assaggiarla qualche volta, è accettabile. In mancanza d'altro già ci scende anche quella, va. Almeno uno non beve acqua, che cenando l'acqua è triste. Sì, io lo stesso, se sono vini che contengono molti solfiti, anche a me mi danno fastidio, mi creano acidità di stomaco, e quindi non preferisco bere vino quando ho vino naturale, oppure sto prendendo quello di Pugioni, vino biologico, costa un pochettino di più, fa il vino rosso, il vino bianco, fa il vermentino che è ottimo, il rosso lo stesso lo trovi anche ai supermercati, ha il bollino verde come vino biologico e non contiene solfiti, quindi ne puoi bere anche più di un bicchiere, non ti crea problemi allo stomaco. Antonio, e dove sei arrivato? Io ho qua a Rockefeller. E allora sei vicino a casa, proprio vicino. Papà, perché a fondo scala sono. Praticamente sì. E capo, adesso mi sono fermato un attimino qua. Un bel deva, se fende. Arrivo subito un attimo, vado a vedere la pioggia. Papà. Sono qua in via Rockefeller, sicuramente sono a fondo scala alla grande. Sei praticamente, non so in che zona di Rockefeller sei, ma se hai passato i carabinieri sei praticamente vicino a casa. Sono quasi vicino ai carabinieri. E io sono scendendo dai carabinieri verso il distributore dell'Eni, di via Budapest, quella zona lì. Il capo, e allora siamo vicini. C'è una zona che abita uno che conosco, ci abita. Vabbè, ragazzi. chiama Pizzi fa? Basso di radio, sei sceso anche di segnale, forse sei in mezzo ai palazzi, da qua con l'antenna che ho non ti sto ricevendo bene adesso, però io ti sento basso, capito? Già ti capisco. Meglio ora? Adesso ti ho sentito meglio a questo passaggio. Dove sei Anto? Dove sei? Sono i carabinieri. Arrivi benissimo, quasi nuovo sei. Già va bene l'impianto, non c'è problema. Ah, ma ribunemo a Gigi, ribunemo. A vedi anda. Se le metti quell'aiutino, lo sai come funziona quell'impianto, una cannonata. Lo so, pensa che sono solo a 5 watt. Hai sentito quando gliene carico 100, vedi cosa è? Però devi anche, come si dice, mettere un microfono un po' più amplificato, capito? Lo so. Adesso mi voglio comprare quello che ho visto della Midland, quello senza fili, cioè quello per la macchina, capito? Quel comando al volante. Ah, ho capito, sì. E già va bene anche quello, non c'è problema. L'importante è che ti aumenti un pochino la modulazione. Quello è per forza, quello è amplificato. Comunque già non stai andando male, dai. Per avere un impiantino così piccolo con i watt della radio già stai andando bene. La Magnum, come cosa te la ricordi? La Magnum, l'antenna, dai. Quella che c'è a babbo. E per quella non ho cambiato le abitudini, perché tanto andava bene, quindi ci ho ripiazzato quella. Avanti. Beh Antonio, ora che sei sotto casa il segnale mio forte ti arriva. Non lo so, perché questa non è. Ho capito. Una smitter, capito. Ma Luca, l'antenna poi l'hai montata? Cappa, sì, e beh, sto uscendo così perché ho messo l'antenna sul tetto, se no rimanevo piccolino. Qua sei sul più del 30. Sì, è il modello quello semi-320. Gli ho messo 4 tiranti sul palo, insomma, che ce la portava il vento. E ho fatto tutto sabato mattina, ce l'ho una settimana da fare. Ho capito. Vabbè, in linea d'aria, in linea ottica, non è che siamo così tanto lontani. Tu dove eri? Sono alla stazione ferroviaria. Ah, e beh sì. Gianni. Avanti Carlo. Ma tu cos'hai l'antenna boomerang piazzata sul tetto? Sì, io ho la boomerang della LEM, quella, cioè, è data per 3 metri circa, ma vabbè, lo stilo è 2,75. Ah, ecco, così provo a vedere, adesso me la cerco, della LEM, quindi antenna boomerang della LEM, tanto fa solo la 27, così. Sì, va, sì, è per la 27, chiaramente poi il radialino lo devi tarare, solitamente l'inclinazione è a 45 gradi, e poi vabbè, ci sono anche delle dritte su alcuni forum tipo Roger Capa, roba del genere. Comunque io col goniometro l'ho tarata a 45 gradi ed è perfetta. Sì, no, già esci bene. Perché voglio provare anche io a mettere una boomerang qua, perché questa che ho, diciamo, non è che va bene per via del rosso, è troppo alto, non riesce ad abbassarlo. Ma si è agganciato Carlo? No, sono i watt della radio. E quanto ne sta dando? Allora, qua mi sta dando adesso 50. 50 watt da quella radio? Yes. Radio. Elite One 5555. È già 50 watt, ma non può essere. Sì, in banda laterale aumentano pure, e in FM. Allora è come il Cobra, allora è della serie del Cobra, una cosa del genere. Sì, poi li posso anche diminuire sino a 4 watt e aumentare, capito, sino a 50. Già va bene, dai, è il tuo segnale, quello che ti ascolto sempre, già va bene. Avanti, Antonio, dove sei? Fermo qua sono. Dove? In via d'Italia? Oh, in via Rockefeller. Ah, via Rockefeller, vabbè, avanti Luca. Bisogna che me lo compri una radiolina più performante, perché questo Alan 48 è un po', a parte che avrà 40 anni. Sì, ce n'è. Se vieni al ghiero con me, entriamo in un garage, allo cerro, ma che c'è? A vendere, a prezzi buoni, a prezzi molto molto buoni, capito? C'è il presidente Lincoln, ad esempio, con la signora radio, tanti canali, e poi c'ha 25 watt, ci sono due basi, due intec base, e ce n'è di baracchini. Piano piano, per adesso ne ho tre vecchietti, c'ho questo Alan 48, poi c'ho un President Billy, che non è il President Bill, che c'era il Bill e il Bill 2, questo è il Billy con la I finale, con la Y finale, piccolo, c'ha solamente il display dei canali, non c'ha neanche il rosmetro, e poi c'ho un Alan 78 multi, e anche quello 40 canali, tutti 4 watt. Io sono un collezionista di radio vintage, ho 16 basi, 220 e 2 ce ne ha 110, perché c'è quello, il Summercam FT250 e fa 110, forse. 16 base e 26 veicolari di tutti i tipi, di tutti i tipi, dagli anni 70 al, sino per dire agli anni 98, 97, 95, tutti perfettamente funzionanti. E io avevo, il mio primo è stato uno Zodiac che aveva la manopola dei canali, praticamente non aveva display, non c'era niente di elettronico ed erano segnati nella manopola come giravi, ed era la mia prima radio che avevo avuto. Poi Carina aveva avuto l'Intec 3230 che in accensione, se tenevi due tasti schiacciati, ti dava 5 bande, quello era bellino, però poi chissà che fine ha fatto. Questi tre li ho recuperati dai miei colleghi e gli ho detto: ma voi non avevate radio nei camion? Sì, e che fine hanno fatto? Ce l'avevo in garage. Ebbene, non me li date? Sì, te li cerco. E ne ho buscato tre così, al volo. Hai fatto bene. Sì, Zodiac, se avevi il base, era celeste, con il case celeste. E poi anche l'Inuit, che era gemello, con i canali all'interno del commutatore. Ti segnavano. Non c'aveva niente, solo M, senza FM, senza niente. E quindi ne ho due, capito? Ne ho due di quelli. Avanti, Gianni, dobbiamo fare, riprendi tu un attimino, arrivo subito. No, comunque Carlo, la tua modulazione è ottima, considerando che è tutto standard, ti ascolto molto bene, che non guasta mai, soprattutto per le orecchie. Io ti sto ascoltando con l'altoparlante esterno, quindi ce l'ho proprio frontale. Quando sono modulazioni così chiare e limpide, le apprezzo molto. Questo è quanto. La cosa dei 50 watt, poi mi sorprende che l'Eniton 5555, ma Marco Condor sicuramente lo conosce, forse c'era anche lui. Vabbè, non sapevo che avesse tutti questi watt. Comunque, buon per te Carlo, dai, attento a non sciogliere l'antenna. No, già, tengo tutto sotto controllo. E stavo guardando adesso quella boomerang della LEM, 3 metri per un peso di circa un chilo, quindi roba leggera. E voglio provare, perché lo spazio ce l'avrei anche per mettere una boomerang, che forse è più prestante rispetto a questa, capito? E adesso prossima settimana vedo. Per adesso già sto uscendo bene, diciamo, per la città, per fare una chiacchierata con gli amici di radio, riesco a arrivare a coprire un po' tutta la città. Antonio, se sei sempre lì via Rockefeller, già ti sento forte e chiaro. Prima, quando ti stavi muovendo, a tratti ti ho perso, però poi ti ho subito ripreso. Ma ora sono in via Turati. Via Turati mi stai arrivando bene, sempre Santiago 7-9, a secondo di dove sei, dei palazzi, però forte e chiaro sempre. Per Carlo, una raccomandazione, se nel caso dovrai installare la boomerang devi stare attento alla direzionalità del radiale, perché deve essere libera il radiale deve essere libero, non lo devi puntare verso nessuna struttura o muro o qualsiasi altro ostacolo, perché sennò ti pregiudica praticamente sia la trasmissione che la ricezione. E diciamo davanti a una certa distanza ci sono gli altri palazzi, capito? Io non lo so se questo tipo di antenna, le boomerang, dove sono io al secondo piano, riesce a... però voglio fare una prova, capito? E vedere che prestazioni ha. Insomma, sicuramente è molto meglio di quella che hai attualmente. No, dico, nel senso, evitare praticamente di indirizzare il radialino vicino al tuo muro o alla tua ringhiera, capisci? Cioè, poi chiaramente se hai palazzi di fronte, quello è un altro discorso, però dico, ostacoli proprio prossimi al radialino, deve essere praticamente libero, ok? Ah, positivo, sì, allora voglia. Io lo metto proprio lontano anche dalla ringhiera, perché ovviamente gli farò il braccio, quindi esce all'esterno, lontano da tutto, senza ostacoli, quello sì, però non è come averla sul tetto, capito? E quindi un po' verrà penalizzata, immagino, però sicuramente sarà più prestante di questa qua che ho. Sono sicuro che avrei un risultato migliore, perché quella che c'è adesso, dalle recensioni tutti dicono che non trasmette bene e riceve peggio, che è un po' sorda come antenna. Con la boomerang, che è stata la mia prima antenna, e si andava bene, ha dato soddisfazioni. Tutto anch'io. Ehi, a K, sì, adesso vedo prossima settimana se riesco a recuperarne una, e così proviamo la boomerang. Carlo, perdonami, ma cosa c'hai? Il bastone, la Thunder? Sì, esatto, ma è un casino, ho provato in tutti i modi a tarare seguendo le misure, tagliando il filo come detto, tagliato al millimetro, capito? Fate le saldature come si deve, nulla, non scende da 2.1, 2.2 e non riesco a farlo scendere. Ho capito, sì, vabbè, quella roba lì è roba per casi di emergenza, dai, tipo come installazione provvisoria. Infatti non mi ha mai convinto, dai. Poi vabbè, guarda che della boomerang c'è anche la boomerang la fa anche la Sirio. La Sirio ne fa due, ne fa una piccola e una più o meno grande come la Lemme. Poi più o meno credo che le due grandi si equivalgano, dai. Comunque io ho quella della Lemme e mi trovo più che bene. Lemme, cioè quelle grandi prendete, non ne prendete piccole, sono una gaggata so. Sì, se prendo Antonio già prendo quella grande, capito, tanto la piccola sarà al di sotto dei 2 metri, sarà 2,75, la grande 3 metri e qualcosa, quindi poco cambia, però prenderò quella più grande. Guarda che la grande, la Lemme sono 3 metri circa, ti ho detto il radiale, sia quello di punta e quello di base sommati sono 2,75, poi c'è la carica sotto dove c'è la plastica, la vetroresina, sommati quello facciamo, sono quasi 3 metri, dai. E già va bene, già, non è ingombrante, come la metterò si noterà anche poco, capito, per cui che ci sia un bastone o la boomerang poco cambia. Va bene, dai, avanti Luca. Io sono qua che sto spazzolando su internet. cercando non so che cosa, però cercando. Luca, ma hai il mic originale? Il mic non è amplificato perché l'originale Midland deve essere andato perso. Me l'hanno dato questo Alan 48 con questo microfono CTE. Ah, quindi amplificato? No, negativo, un microfono normale, non è amplificato. No, già va bene, dai. Per essere normal già va bene. Avanti Antonio, che stavi schiacciando a Luca. Per Gianni lo profeta, mi senti? Cos'è sotto lo bacolici? Sei sul più del 30, Antu. Beh, sono alla stazione. Allora non mi sono imbagliato, no. Ragazzi, Bianco, per me devo sbrigare una cosa. Ci sentiamo tra poco. Bene Gianni, non ti preoccupare, già siamo qua. Sono proprio sotto. Senti il classon. Antonio, adesso se tu mi senti ti ho riperso, devi essere in movimento in mezzo ai palazzi, sicuramente non sei più in via Turati, magari i prossimi passaggi già ti ripesco. Via K che ti sento! E un po' bassino ma ti sento! Dove sei Antonio? Guardi Luca! Luca c'è, vi sente, vi ascolto. Antonio credo che sia in zona stazione. Sì, sono nella stazione, sono. E adesso ha detto in zona stazione sono, già ti ho sentito. E ovviamente in mezzo ai palazzi io l'antenna troppo bassa, capito? E ti sento un po' a tratti, però diciamo se quando vai lento ti sento bene. Magaffa. Un attimino, questo accendendo la caldaia, rientro subito. La ciappare, ui, cosa li fatti neanche? Bene, clown, non ti preoccupare, già siamo in occhi. Forza è un po' bassino in questa zona, Come Antonio? Un po' bassino, sono in zona Viale Sicilia. Ah, cappa, in Viale Sicilia. E lì c'è sempre traffico, occhio. Cappa. Scommetto te ne stai rientrando a casa, Antonio, piano piano. Cappa, sto rientrando a casa. Ehi, magari ci sentiamo dopo quando arrivi a casa. Ok. Cavolo, questi numeri spam, dice che avrebbero finito, invece ne stanno arrivando più di prima. Maledetti, li vedano loro, la pubblicità, gli spam e quant'altro. Ho detto? Stavo guardando la boomerang della Sirio, la 27A, è alta 3 metri, 3,90, quasi 4 metri. Invece è la grande, della LEM arriva a 3 metri in totale, capito? E più o meno sono quasi della stessa misura. Quella della Sirio forse è un pochettino più prestante perché copre anche più frequenze, va praticamente da... mi sa da 26, 27 fino a quasi 28 MHz. Sirio già è buona già. E non costano neanche tanto, c'è in offerta su Amazon, meno il 5%, con spese di spedizione compresa, 56 euro la sto guardando, non è molto. Allora va bene, il Sirio è un po' più facile da montare forse. È un pochettino più alta di 3 metri, però va bene. Poi c'è da regolare il radiale sotto a 45 gradi, come stava dicendo Gianni prima, e dovrebbe essere meglio di questa che ho. Adesso vedo se il caso me la ordino, tanto nel giro di pochi giorni arriva. Io. Buongiorno alla notte, Giampa. Che non te la mandino dalla Germania, se no fai la fine mia, che la aspetti per più di un mese. No, che già la vendono, capito, la spedisce direttamente anche Amazon, antenne Sirio, diciamo, si trovano tranquillamente anche in Italia. E non so se la trovo anche al negozio, perché sono antenne abbastanza comuni e le più, penso siano le più pratiche e vendibili, quindi può darsi pure che la trovo al negozio. Magari provo a fare un salto anche in via 4 novembre da Fusaro, a volte non ne abbia, perché se c'è poca differenza di prezzo la prendo direttamente al negozio. Ma oltre Fusaro non esiste più nulla a Sassari? No, perché GBC non c'è più neanche TG estiva, purtroppo qualche settimana fa ho sentito se n'è andato via, passato a miglior vivere, come si dice, poverino, e niente, quindi adesso quel negozio non si sa che fine farà. Ma io mi ricordo che c'era a suo tempo anche un negozio a Predanieda, praticamente dietro la Upas Ricambi, là, diciamo dove c'è l'ingresso dell'officina della German Car, appena più avanti c'era una piazzettina e sulla sinistra c'era un negozio che vendeva di tutte queste cose qua. Sarà Melchioni, il vecchio Melchioni dovrebbe essere quello. No, non era Melchioni, c'aveva un altro nome, però sinceramente non ci arrivo a ricordarmelo. Perché era sempre in quella zona, capito? Magari ha cambiato nome. Sì, saranno passati 40 anni no, ma 35 sì. Grassi di Driane, Grassi. Grassi, mi pare di sì. Ma esiste ancora Luca? Ma è sempre lì. Vai da Fusaro, te la prendi, te la lembra, se ce l'ha. E infatti andrò da Fusaro e faccio prima. Vecchi, whisky. Ultimo di bianco per me, che devo rispondere al telefono. Ci sentiamo dopo. Ciao Antonio, Luca, Claudio, Gianni, se siete in ascolto, faccio un attimo di bianco, a più tardi. Ciao, ci sentiamo. A dopo Carlo. Da Radio Italia è tutto, qua Radio 105. Ello Nacchi, qua San Pino, Golfo della Ginara. Eri, sta tornando indietro la tempesta, attenzione, muovetevi lunghi UE e salite i vacconi. Ciao Sampri, ben sentito. Caparogero, Luca sì. Ello, Luca. Ello Dando, quindi dal monte con furore. Luca, è me, ma penso ci sia. Un orecchio alla radio e l'altro al computer. Ah, K, come ti sto arrivando? Fai un passaggio. Prova di radio 1, prova di radio 2, prova di radio 3, San Pino a Sorso. Santiago 7 e radio 4, non è molto alta. E già va bene, perché devo sostituire il capo dell'antenna. Praticamente l'RG58 sull'Arcirio Game Master non va bene. E che cavo devi andare a mettere? E al posto dell'RG58 mi sembra che ci vuole l'R299, non so. Boh, non lo conosco. Praticamente è un po' più grosso e un po' più rifinito, dai. Perché questa antenna, essendo una 5 ottavi, con taratura autotarante, non va bene questo capo, rimane un po' sorda con questo capo, capito? Secondo chi c'è in banda, senza tipo quel Claudio di Ugilo, non lo sento io. Io avevo a suo tempo l'RG213, perché ne avevo una bobina intera, di quelle bobine grandi in legno che avevo buscato, e con quella sì, c'era pochissima perdita di segnale, era un bel cavo. E adesso invece sto uscendo con l'RG58 che ho comprato al volo. E forse è proprio quello che hai detto tu, capo, perché l'ho chiesto a Google GPT e mi ha detto che è più idoneo l'altro tipo di cavo. È grosso quanto un dito, minimo è come tre RG58 uno a fianco all'altro, è molto più grosso. Attenzione sul 10. Bella gamossa, doppio room. Mi chiedendo a Google GPT che tipo di capo RG213 ci vuole per la mia Game Master Sirio. Quello RG58 mi ha detto che è come mettere i pneumatici di un utilitario a una Ferrari. ANB. Chi te l'ha detto? Google me l'ha detto. Io ho l'H100. L'H100, quello grigio, va benissimo. E si chiama già H100 per CB. K. Avame Rucri, perché questo io è per quello che, secondo se c'è Claudio, qualcuno rimane sorda questa antenna. Ma non penso che, perché ho usato l'E58 per tanti anni eppure andava bene. Ma su questa antenna, essendo un'antenna tipo di nuova generazione, che è autostradante, ci vuole o la RG213 o il suo H100. Non lo so, io ho l'H100 e vabbè, io avevo preso una matassa da 100 metri di occasione, ce l'abbiamo divisa, capito? Già va bene, io se adesso la cerco me la prendo, 5 metri mi riservi a me, già mi bastano, se no me ne prendo una bobina da 15 metri e poi devo comprare due PL buoni. Perché quelli vogliono più grossi l'entrata del capo, l'altro piede. Non devo prendere mai contatto, perché qui devi fare gli spezzoni, se devi fare qualche altro spezzone perché è difettoso, almeno c'è il capo, capito, uguale. Infatti, mi si rubini. Ne prendi qualche metro in più, di modo che c'hai qualcosa in più per farti gli spezzoni. Per esempio adesso da dove c'ho la radio a dove c'è l'antenna ci sono 5 metri di cavo, ci saranno 4,50 metri, però gli ho messo tipo la matassina da 5 metri in terra. E allora mi devi dire la matassina, dove c'è l'ultimo piano? E allora sono in salone in mansarda ed è sia sul gabbo e anche per la movita, se no la vengo. E allora c'hai anche poca dispersione, è strano che tu non senti le persone, hai anche poca dispersione, perché avendo meno cavo hai anche meno dispersione, capito? Ma invece secondo chi c'è in ascolto, in modulazione, vabbè che lui è dietro di me praticamente, e c'è tutto il monte di Signori e tutto l'altro monte. Se invece tipo in obliquo adesso come sto parlando con te, allora sono parte in diagonale da, tipo dalla zona di Giorra, allora lì c'ho campo aperto e arriva subito da te, ma se devo arrivare a Usilo non ce la fa, rimane un po' tappata l'antenna, capito? Ma che a me mi sta arrivando Santiago 7, come mai? Perché faccio un lungo sudato con lineare. E vabbè, anche senza lineare, Claudio per dire arriva, come si chiama, gli arriva 9 Franco a Claudio da Sorso. Ma Franco, già Franco non è centrale nucleare, va. No, non è la centrale nucleare, diciamo che Franco forse è una posizione più alta, boh. Eia, quello è vero, perché è più alto. Lui per esempio da dove sono io a dove lui, minimo a riferimento di Daria, sarà più alto di 100 metri. Cazzo, senta degli ribizzoni che tu vedi, sotto il fronte. Sì, a Rosento me ne sono mangiando oggi lunga. Vedi, mi devo seguire il nostro. Ed è sempre cantendi e compendi, infatti nel mio ci sono 3 uova e una deve essere la fatta oggi e di conseguenza una e una ieri e fatti ieri. Adesso vedo se ne fa uno domani e poi li controlliamo tra 7 e 8 giorni senza Gavannini. Guardo con la piletta, c'è una piletta piccola potente a vedere se sono feconde e niente. E poi devo togliere quel bastoncino Indios, perché se no vedo alla fine andare a brincassire e s'apparra e ne pute in dorra tutti in terra e non voglio che cavolo voglio un po', non manco un pochino di buccini in televisione, perché sono un'altra coppietta, capito? E ce li ho i figli di altre due coppiette diverse, questa è un'altra coppietta e quindi poi posso accoppiarmi, capito? Se li metto fratello e sorelle non vanno bene. No, mai. Sono come noi, dello stesso sangue, quindi non va bene. Ma io già avevo l'allevamento.